così, facciamoci del male con la maledetta fuffa che ogni giorno sale. Le sucker torte sono dappertutto, il rap è morto, viva il rap, oggi siamo in lutto. Di botto qui proclamano monarchi, intortano di brutto con sti marchi. Più che vanna, ma Miugi non inganna mai, ti manda questa manna. Born and bred in Sanna, ma dal regno di Oz. Un po' di caro vecchio beatbox, soltanto Mick e Vox per il mix. Inox come Victor, Stedrex Deluxe con i flip tricks. Tu sei replicante più che un Nexus 6. Bye bye B-boy, crazy bold e pantaloni, bracaloni. Credi basti questo a farti crescere i coglioni. Buoni tutti a far rimare due parole. Le sucker torte sai si squagliano sotto il sole. Le sucker torte. Contratto con la major, ma scordati sto pregio di metrica, di lirica, di lira nella tasca, ce n'hai tipo l'automatica. Mollevati di torno che il tuo terno l'hai già vinto, sucker torta. Se non vuoi farti da parte non importa, posso farti un giro attorno. Tu sei il fumo, io l'arrosto, manco basti per contorno. Torno a dirti, prega solo che non esca dall'inferno di quest'underground indoor. Mindoro tipo pillola, ti strino al primo sintomo. Stiloso più di Diorio come por modello l'atomo. Monotono il tuo rap, rap da babbo, devo dirlo mo. Turbe da teenager messe in rima mi disturbano, urtano le basi troppo acide laddove te la spacci. Re rime che ci cacci più forzate dei lavori in un lager, come scopo di servirti come duopo. Sucker, sucker, sucker. Le sucker torte. Dannato il rap a morte, la sentenza è senza appello. Appello, vo a nastro come Mastro Donatello. Con in mano lo scalpello, ti spacco se ti becco, manco fossi picchiarello. Più chiaro d'un pastello che ti impastano in pasticceria. Ti cerano in farina, no per riferirti alla periferia. Ma mi sai di segheria, fatto in serie tipo Ikea. Più ripetente di garrone, gracchi come un cacatua. Le sacerdote.